Io ho imparato ad amare molto la sapienza del popolo. Io sono un figlio del popolo, mio padre era un artigiano, io stesso fino a 20 anni ho avuto i calli anch'io sulle mani perché studiavo e lavoravo e ringrazio mio padre che mi ha introdotto al lavoro, che è una grande scuola. E dunque io vivo in mezzo al popolo, ho imparato dal popolo centinaia e centinaia di proverbi. Mio padre ne sfornava in continuazione. Ora ve ne cito uno e lo dirò in dialetto lombardo, ma è facilissimo da capire. Tu trovi nel mondo tanta gente che ti dà consigli, no? Tutta la gente ti consiglia. Da quando hai il raffreddore ti dice fai così, fai cos'ha. Se ascolti tutti dovresti. A quando hai un problema in casa con i figli, ma bisogna far così. Allora c'è questo bel proverbio che dice: metà parer e metà danè, cioè metà consiglio e metà soldi. Cioè tu mi dai un consiglio, bene, aiutami a realizzarlo, perché i consigli si danno gratis, ma. Mi veniva in mente questo proverbio, e io sono certo che il Signore non si offende perché anche il Signore era uno del popolo, era uno. Quando lui mi ripete nel Vangelo, come anche oggi, no? Capitolo 13 di Giovanni, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. E io gli dico: Gesù, ma che bel comandamento che mi dai, metà parer e metà danè. Io vorrei amare il mio prossimo, ma non sono capace. Si fa una fatica. Quante volte sbaglio, dico: Signore, tu mi dai il comandamento di amare i miei fratelli. Bene, aiutami. E il Signore ci dà il suo aiuto. Sapete come si chiama l'aiuto che Gesù ci dà? Me lo dite voi? Ah, non lo sapete? È lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Gesù ha detto un sacco di cose ai suoi discepoli e hanno capito quello che hanno capito, cioè pochissimo. Quando però è arrivato con la Pentecoste lo Spirito Santo, si sono spalancate le loro menti, si sono aperte le loro bocche, hanno cominciato ad andare. È lo Spirito Santo, amici, che noi dobbiamo invocare. Oh, fate bene a invocare la Madonna, eh? Io la amo tantissimo, le faccio un sacco di pubblicità. Fate bene a invocare i santi, io li amo tantissimo. Ma è lo Spirito Santo, l'anima di tutta la Chiesa, l'anima di tutta la santità dei santi e di noi che siamo candidati alla santità. Allora, Signore Gesù, ti dico grazie per questo comandamento che mi dai e che dai a questa mia comunità. Amatevi gli uni gli altri. Ma poiché, Signore, se io mi guardo allo specchio, sono così poco capace. Ma se guardo in faccia i miei cristiani sono ancora meno capaci di me, senza offesa, è la verità. Allora insieme chiederemo lo Spirito Santo. Signore, ti chiediamo, mandaci il tuo Santo Spirito, che è lo Spirito d'amore nella Trinità, che è lo Spirito che rende viva la Chiesa. Vieni, Santo Spirito. Riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.